Come si trova Tione? A Tione? Sono 54 anni che sono a Tione, sposata, e mi trovo bene. E cosa pensa dei giovani? Non so cosa dirvi. Non so cosa dirvi perché è un periodo molto delicato per i giovani al momento. Quando avevo le mie figlie, si trovava lavoro, era tutto un altro genere di... Adesso non so, anche qui a Tione c'erano tanti ristoranti e trovavano sempre da fare qualcosa. Io per esempio ho lavorato all'Hotel Milano più di 20 anni. Non lo so, mi spiace per i giovani di oggi, perché anche loro se hanno tanta volontà, non saprei cosa dirvi. Ah, ok. E secondo lei i giovani cosa pensano degli adulti? È una bella domanda questa. Delicata, molto delicata. Forse che abbiamo un po' le idee all'antica, però a me piace anche ascoltare i giovani e se fosse possibile aiutarli a capire. Magari. Magari. Bisogna aiutare anche questi giovani.